Storie, storielle, storiacce. Dopo aver elencato uno dietro l'altro gli elementi che a suo dire non suffragano l'ipotesi del suicidio, Vincenzo Bove, il padre di Adamo, il manager Telecom trovato senza vita dopo un volo dalla tangenziale di Napoli, di questa misteriosa morte dà una lettura incrociata con le questioni delicate di cui il figlio si stava occupando. Io credo che tutta la vicenda deve essere portata a quello di cui si è parlato per molto tempo. Cioè la sua collaborazione con i magistrati nell'inchiesta a Buomar. Non per dubbi, perché altrimenti non si spiega niente. Perché guardi, io innanzitutto non esiterei a dirlo, perché non è una vergogna, perché mio figlio, ripeto, non ha fatto nulla di cui vergognare. E poi per me sarebbe stato sempre mio figlio, quindi io ne parlo perché è la verità. Noi ancora oggi ci domandiamo come è successo, perché è successo. Forse le pressioni legate anche a questa delicata inchiesta che mette sotto accusa funzionari del Sismi potrebbero esserci dietro quel tragico volo, o c'è ancora dell'altro? Vincenzo Bove dà sfogo a tutto il suo dolore. È una vendetta che hanno covato e sono riusciti nel loro intento, sono riusciti, perché questa è stata una pura vendetta, proprio senza mezzi termini. Non ho dubbi. Le parole di questo ex maresciallo dei carabinieri sono durissime e categoriche, sono le parole di un padre distrutto dalla morte del figlio e tormentato dal ricordo di quelle confidenze strappategli negli ultimi giorni e ripercorse nella mente come un'ossessione ora che lui non c'è più. Mezze frasi raccolte nei pranzi della domenica, piccoli sfoghi sull'uscio della porta, qualche nome rimasto impigliato nella memoria. Chi possa esserci dietro quella parola, vendetta, Vincenzo Bove non lo dice esplicitamente, ma pochi giorni dopo i funerali di Adamo è entrato nella procura di Napoli ed è andato a bussare alla porta del PM, Mario Canale, titolare del fascicolo per istigazione al suicidio. A lui ha voluto riferire ogni particolare sentito dal figlio, soprattutto dopo che il 23 maggio il garante della privacy aveva segnalato l'esistenza di falle nel sistema di protezione delle banche dati TIM. Dai computer degli uffici di via Torre Rossa a Roma, proprio dove lavorava Bove, scoprono gli ispettori che è possibile estrarre tabulati telefonici senza lasciare tracce. Si allungano le ombre più fosche su questi uffici nevralgici che gestiscono il delicatissimo settore delle intercettazioni. Alla Telecom lavorava anche Giuliano Tavaroli, arrestato a Milano per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione di pubblici ufficiali per l'acquisizione di informazioni coperte da privacy. Dopo il rapporto dell'Authority, l'azienda decide di avviare un'indagine interna e lo stesso Bove viene convocato. Ci sono state delle deviazioni, delle cose che lui, ripeto, era chiamato a dare chiarimenti, a fornire dei chiarimenti, perché poi c'erano pur sempre, non dico responsabilità riflesse, ma che comunque erano legate al, perché il capo, si dice sempre, non poteva non sapere. Informazioni, voci, indiscrezioni circolano dopo la morte di Adamo Bove e oggi quello che al padre preme più di tutto ripetere è che il figlio non fosse mai stato accusato di qualcosa. In questi ultimi tempi, dato che le intercettazioni telefoniche erano diventate, diciamo, non dico di moda, insomma, perché sparite il testimonio, che ormai è una razza estinta, allora tutto si era incentrato su queste intercettazioni, per cui lo chiamavano anche per consulenze, insomma, per fatti legati al suo lavoro, ma non perché mio figlio non è stato mai da nessuna procura indagato, né il suo nome è emerso in indagini di questo tipo, anche se io ho fatto qualche querela, quindi lui non è stato mai indagato, è stato sentito dall'autorità giudiziaria più volte, perché lui, essendo il responsabile del settore, essendo un esperto, lo hanno chiamato diversi, diciamo, magistrati proprio per avere dei chiarimenti, perché lui desse delle informazioni utili. proteggere la memoria di uno dei suoi ragazzi e difenderne a spada tratta l'integrità è ora la missione che ha voluto darsi Vincenzo Bove, che per questo ricorda tutte le collaborazioni fornite agli inquirenti dal figlio Adamo. Gli venne offerta questa, diciamo, possibilità di cambiare lavoro, la cui natura aveva delle similitudini, no, con l'attività che egli ha sempre svolto, e quindi era non contento, era felice. Quindi con entusiasmo. Con molto entusiasmo, aggiungo. Lui praticamente lavorava per, non voglio esagerare, 13-14 ore al giorno. Durante la settimana, quando non stava fuori Roma, veniva a casa, e durante queste occasioni parlavamo, anche se lui caratterialmente era molto riservato, per cui qualcosa gli dovevamo insistere e lui malvolentieri raccontava, ma non certo fatti attinenti al proprio lavoro. La madre, quando lo vedeva un po', non dico turbato, insomma diverso dal solito, no? Lui diceva che era il lavoro, perché chiaramente in questi ultimi tempi tutto si era incentrato su questa intercettazione, per cui lo chiamavano anche per consulenze, per fatti legati al suo lavoro. Il sequestro dell'ex imam Abu Omar, i traffici di tabulati telefonici, una super Amanda, il Lazio Gate, ossia il presunto spionaggio ai danni di Marazzo e Mussolini. Mai come in questi casi, le intercettazioni sono il cuore stesso delle inchieste, snodo determinante per la magistratura nel primo fascicolo, oggetto di presunto reato negli altri. Per tutte queste vicende era stato chiamato in causa Adamo Bove. Aveva reso possibile l'identificazione di 4 cellulari scoperti scavando intorno al rapimento dell'ex imam, ma su di lui i magistrati contavano anche per una mappatura degli accessi senza tracce alle banche dati Telecom e TIM. Lunedì 7 agosto, dopo la morte di Bove, nel Palazzo di Giustizia del capoluogo lombardo si tiene un vertice tra i magistrati di Milano, Roma, Napoli e Torino. Più inchieste si incrociano, soprattutto quelle milanesi su Abu Omar e sull'attività di Giuliano Tavaroli, ex uomo Telecom, accusato di associazione a delinquere, amico di Marco Mancini, 007 del Sismi, indagato per il sequestro dell'imam. Indiscrezioni rivelano l'esistenza di un archivio con informazioni sensibili su politici, manager, personaggi della vita pubblica. A che o a chi servono queste informazioni? Si chiedono i magistrati. Nel giro di pochi mesi l'Italia si ritrova a fare i conti con un bubone esploso con Lazio Gate. Trovatosi in mezzo a tutto questo, Adamo Bove è finito stritolato dal peso di forti pressioni o piuttosto da altre manovre, come pensa il padre? Io mi auguro che vengano fuori altre questioni. Allo Stato l'unica certezza che abbiamo è che il nostro figlio, che mio figlio è morto. Ecco, questo è l'unica, l'altro non sappiamo nulla. E mi auguro di saperlo qualcosa, certo. Sarà una magra soddisfazione rispetto alla perdita di mio figlio, perché nessuno ce lo restituirà, no, in vita. Però è pur sempre una qualcosa. Qualcosa per dare una risposta alle domande e alla rabbia che riesplodono davanti ad ogni foto seminata qua e là sui mobili dell'appartamento. Qualcosa per spiegare a se stessi il perché della morte di uno dei figli, riuscito ad arrivare laddove questo ex maresciallo dei carabinieri, originario di un piccolo paese del Sannio, non immaginava neanche. Dico, nessun genitore parla male dei figli, ma io anche volendo, questo mi ha dato soddisfazioni di ogni tipo. La nostra era una famiglia, ancorché modesta, mio padre era artigiano. Guardi, io non insperatamente, perché ho sempre sperato che i figli divenissero, insomma, qualcuno migliore di me. Io ero un maresciallo dei carabinieri, no? Sì. Ho lavorato per oltre 40 anni, 44 anni per esattezza, e questi sono andati oltre alle mie aspettative. Molto, molto al di là. Ecco. È stato tutto un successo, che poi è andato a finire in questo modo. Io e mia moglie e gli altri non riusciamo a spiegarcelo. Una spiegazione, questo padre confida di riceverla al più presto dalla magistratura.